Il materiale di Tobias. La celebrazione del salto quantico. Taos, New Mexico. 17 settembre 2007. Con Tobias, canalizzazione 1. Canalizzato da Jeffrey Hope. www.crimsoncircle.com. Traduzione di Gioia Villa. E così è, cari Shaumbra. E così è. Il pubblico applaude ed esulta. Possiamo avere la vostra attenzione? Possiamo avere la vostra attenzione? Risate. Questa è la voce dei vostri conduttori. Tobias, Adamu Saint-Germain e Kutumi, che canalizzano ora per informarvi che il treno della vecchia energia entrerà nella stazione della nuova energia tra 9 ore. Per favore, Shaumbra, svegliatevi. Tra circa 9 ore il treno farà il suo ingresso in stazione. Il nostro viaggio. Il viaggio dall'ordine dell'arco su questo treno, che a volte si muove lentamente, su questo treno, a volte molto antiquato e scomodo, è stato lungo. Sembra che siano trascorsi eoni di tempo da quando abbiamo lasciato insieme quest'ultima stazione, scegliendo di imbarcarci in un viaggio per chissà dove, scegliendo di viaggiare insieme, in gruppo, di far parte di questa esperienza incredibile di espandere la nostra consapevolezza angelica, facendo scendere la nostra energia su questo pianeta chiamato Terra, portandoci giù nella materia fisica, uscendo da quella stazione dell'ordine dell'arco, insieme in questo viaggio che sembra aver avuto inizio tantissimo tempo fa. Ma mentre ora stiamo per entrare in stazione, voltiamoci indietro a considerare le molte, molte vite che abbiamo condiviso e tutti i tentativi e le difficoltà che ci hanno portato fino a questo punto. Ricordate, alcuni di voi possono, i tempi in cui abbiamo vissuto ad Atlantide? Le incredibili avventure legate all'apprendere com'era vivere insieme, condividere, uniformare i corpi e le menti, aprirci e scoprire di più su chi eravamo, scoprire di più su questa cosa definita essere umano. Anche prima di allora, alcuni di voi potrebbero ricordare il tempo in cui il treno attraversò i tempi di Lemuria. Quanto era interessante osservare dal finestrino del treno che passava le incredibili specie di esseri biologici. Immaginare come sarebbe stato diventare come un essere biologico e poi scoprire esattamente cosa si provava a trovarsi dentro uno di quei corpi. O forse molti di voi non ricordano quella parte del viaggio fatta insieme, proprio perché si tratta di eoni di tempo fa. Queste cose che ritroviamo a bordo di questo treno multidimensionale sono davvero uniche e si chiamano tempo e spazio. All'interno degli scompartimenti che condividiamo su questo treno, che procede sui binari molto lineari, esiste questa dinamica quasi alla moviola, che è quella del tempo, e questo elemento ingombrante definito spazio. Eppure, insieme abbiamo imparato a conviverci, abbiamo imparato a scoprire dentro di noi, sempre di più, su noi stessi e sugli altri. Abbiamo attraversato Lemuria, questo treno ha attraversato Atlantide. Insieme abbiamo effettuato una fermata, un tempo di cambiamento della consapevolezza, verso il 630 prima di Cristo. Vedete, durante il nostro viaggio in treno ci sono stati cambiamenti, ci sono state modificazioni. A volte abbiamo percorso binari secondari, altre volte binari bassi. 630 anni prima di Cristo c'è stato un cambiamento nella consapevolezza e ne abbiamo tutti fatto parte su questo treno chiamato la vecchia energia umana. Quel cambiamento di consapevolezza ci ha portato a 2000 anni fa, al tempo di Yeshua. Un'altra variazione, un altro cambiamento. Uno dei molti che parecchi di noi hanno percepito e ricordato proprio come se fosse accaduto ieri, poiché l'energia di Yeshua, l'ordine di Sananda, è sicuramente una parte importante di questa tappa finale del nostro viaggio insieme. Lungo il paesaggio della consapevolezza, insieme abbiamo sperimentato altri cambiamenti e variazioni. Gli inizi del 1500, l'ultima parte del 1800 con la rivoluzione industriale. La maggior parte di voi era presente anche in questi casi. Più avanti, di nuovo, abbiamo sperimentato un altro cambiamento di questa cosa definita consapevolezza, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando gli umani decisero di scegliere di andare avanti. Scelsero di cercare di trovare questa cosa chiamata pace tra di loro. Scelsero di vivere e lavorare e collaborare insieme, piuttosto che distruggersi a vicenda, piuttosto che cercare di comandare il mondo. Vi siete resi conto che ora sarebbe impossibile per qualsiasi paese, per qualsiasi leader o gruppo di persone di conquistare il mondo? Non sarebbe possibile a causa del cambiamento di consapevolezza cui abbiamo assistito proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono stati altri cambiamenti. Mentre ora ci prepariamo ad entrare nella stazione del salto quantico, mentre cominciate a raccogliere i vostri effetti personali, potreste ricordarvene alcuni altri. I cambiamenti avvenuti negli anni 60 e all'inizio degli anni 70, durante i quali moltissimi di voi hanno giocato un ruolo attivo. Cambiare la consapevolezza nel suo punto più profondo, resistendo alle cose definite guerra. Aprire la vostra consapevolezza attraverso metodi alternativi di guarigione, con metodi di consapevolezza alternativa, con cose come la meditazione, alcuni di voi attraverso cose come le droghe, ma in effetti avete aperto la vostra consapevolezza. A volte queste cose rendono il viaggio in treno un po' più tollerante, risate. Ma prima o poi, Tobia Saldacchia, si raggiunge un riequilibrio naturale. Il cambiamento avvenuto alla fine del millennio, nel 1999. Interessante, Shaumbra. È interessante che proprio nel mese di agosto del 1999 gli Shaumbra hanno cominciato ufficialmente a riunirsi di nuovo, a riunirsi insieme per quello che doveva essere uno degli ultimi e uno dei più grandi cambiamenti nella consapevolezza, ciò che è accaduto durante gli ultimi 7 o 8 anni. Ora, mentre ci avviciniamo sempre di più alla stazione del salto quantico, tra poche ore, diamo un'occhiata al viaggio che abbiamo condiviso, particolarmente da quando ci siamo riuniti in questa vita sotto il vessillo dell'iscia umbre. Le difficoltà sicuramente ci sono state, ma l'ultima tappa del viaggio è sempre la tappa più difficile, come sapete bene. Quando siete partiti per questo bel viaggio, quando avete messo piede sul terreno che lasciava l'ordine dell'arco per venire sulla terra, ah, come eravate eccitati! Le aspirazioni, i sogni che avevate, come sarebbe stato essere fisici! Invece, in quest'ultima tappa del viaggio, quando il motore è stanco, quando le carrozze su cui viaggiamo sono diventate vecchie, cadenti e logore, anche voi sapete che non vi servono più. Sapete che esiste qualcosa di estremamente più grande, la nuova tecnologia spirituale. Sapete che esiste e questa è la parte più difficile. Ecco perché durante questi ultimi 10 anni, che sono semplicemente un battito di ciglia, un flash paragonati a tutto il viaggio compiuto insieme su questo bel treno. Ecco perché è stata la parte più dura. Avete giocato a rincorrere la consapevolezza. Sapevate di trovarvi nelle ore più critiche di tutto il viaggio. Avete cercato di imparare il più possibile mentre vi trovavate ancora nella consapevolezza della vecchia energia. Vi siete regalati alcune delle sfide più grandi, mentre vi trovavate ancora nella vecchia energia. Alcuni di voi, amando molto dei cari aspetti della vecchia energia, hanno cercato di accumulare il più possibile durante queste ore decadenti, sapendo che poi le cose non sarebbero mai più state le stesse. Moltissimi di voi si sono sottoposti a sfide e difficoltà nella loro vita, semplicemente per scoprire cosa significava arrivare al limite, arrivare alle frontiere della vecchia consapevolezza dentro di voi. Alcuni di voi hanno preso su di sé il ruolo della consapevolezza della nuova energia anche per gli altri, percependo il loro cambiamento, il loro sé che si sviluppa, percependo il cambiamento della loro consapevolezza, prendendo letteralmente su di sé la loro energia. Eccoci qui, Shaumbra, nelle ore finali. Nelle ore finali di ciò che definiamo consapevolezza della vecchia energia sulla Terra. Consapevolezza. Consideriamo cosa è davvero la consapevolezza. La consapevolezza è coscienza, non semplice coscienza che arriva dalla mente, ma coscienza che arriva da ogni parte di voi. Quanti di voi l'hanno percepito ultimamente, proprio lì nello stomaco, proprio lì? Quella è consapevolezza, e la consapevolezza sta influenzando il vostro corpo fisico, e voi percepite qualcosa. Quanti di voi l'hanno percepito nelle spalle o nella schiena? Quanti di voi l'hanno percepito nei sogni o con l'immaginazione? Fa tutto parte della consapevolezza, coscienza. Consapevolezza. Consapevolezza del vostro ambiente esterno. Consapevolezza di altre persone. Ma alla fine, consapevolezza del vostro puro sé. Durante questi ultimi anni, in particolare, avete raggiunto molti limiti per imparare cose su di voi. Per imparare qualcosa del sé puro, del sé umano, l'oscurità del sé, il potenziale del sé, l'amore verso se stessi e l'odio verso se stessi. Tutte queste cose allo scopo di ottenere questa consapevolezza, di ottenere questa coscienza. Durante questi ultimi anni avete imparato molto su di voi ad un ritmo accelerato. Sappiamo che è stato difficile e sappiamo che a volte ve la siete presa con noi, i conduttori del treno, pensando che avremmo dovuto fare le cose per voi. Ma ricordate, ve l'avevamo detto lasciando la vecchia stazione. Noi non possiamo farlo per voi. Noi eravamo lì per aiutarvi e guidarvi. Eravamo lì per rassicurarvi. Eravamo lì per comprare i biglietti. Eravamo lì per assicurarci che tutti raggiungessero insieme la stazione del salto quantico della nuova energia. Ma toccava a voi farlo. Il nostro ingegnere. Oh, a proposito, l'ingegnere su questo treno, dal momento che abbiamo lasciato l'ordine dell'arco, è stato il capo Metatron, ingegnere capo di questo treno della consapevolezza. È stato la vostra luce in spirito. È stato voi. È stato lo Shaud, attraverso questa cosa chiamata Metatron, che ha aiutato a guidare questo treno. È stato lui quello coerente, quello che c'è sempre stato perché rappresenta voi. Tra poche ore entreremo nella stazione del salto quantico e Metatron non proseguirà. Metatron non andrà avanti perché Metatron, la vostra voce in spirito, sta per trasformarsi. Sarà con noi un nuovo ingegnere, che è più voi che mai. Il suo nome, una volta Metatron, ora è Yo-Ham. Yo-Ham, voi, Dio, l'umano divino. Non direte più, beh, quello che è, che in realtà per i conduttori di questo treno suona come le unghie su una lavagna. Risate. Beh, quello che è. Quello è un modo di dire da vecchia energia, perché nella nuova energia diventa ciò che creo sono, ciò che scelgo sperimento. Io sono ciò che sono. Non più, beh, quello che è. Questo va bene per uno che sta galleggiando lungo la griglia e la corrente della vecchia consapevolezza, permettendo che le cose avvengano, magari lasciando che la corrente della consapevolezza lo colpisca, lo guidi, lo porti via, senza una consapevolezza deliberata, senza nessuna scelta, senza nessuna possibilità di creare. Nuovi potenziali. Mentre ci avviciniamo alla stazione, che cosa accadrà? Bene, vi daremo alcuni indizi. Il resto dell'umanità non si trova necessariamente su questo treno, quindi non aspettatevi che cambi. Il resto dell'umanità ha preso il suo treno, viaggiando con il suo orario, rimanendo nell'energia della dualità. Ha fatto la sua scelta. È importante onorarla. È importante capire che sta scegliendo le cose come parte della sua esperienza. Quindi non abbiate queste aspettative tipiche del mondo della vecchia energia sul suo treno. Non si tratta di cercare di cambiarla. Si tratta delle trasformazioni che state attraversando. E mentre ci avviciniamo un po' di più alla stazione della nuova energia, rendetevi conto che i vostri potenziali stanno aumentando in modo significativo. Vorremmo considerare questa cosa dei potenziali, tutte queste bolle, tutti questi aspetti che sono disponibili per voi, non creati da qualcun altro, ma creati da voi. Essi sono il vostro futuro, sono il vostro prossimo istante. Non si tratta di cose che vi freneranno, vi bloccheranno o vi tratterranno. Si tratta dei vostri potenziali e su questo treno della vecchia energia state lavorando con un gruppo limitato di potenziali, un numero finito e definito di come potrebbero essere i vostri prossimi istanti, giorni e anni. Invece, nella nuova energia, i vostri potenziali aumentano a livello esponenziale, interdimensionale e meraviglioso. Forse all'inizio potreste non riconoscerli, potreste chiedervi: di che cosa parlano tutti questi potenziali? A me sembra che sia tutto rimasto esattamente lo stesso. Fermatevi in quel momento, per favore. Fermatevi in quel momento. Fate un respiro profondo. Yo Ham. Voi, Dio. Ricordatevi che potete espandervi al di fuori della sfera dei vecchi potenziali dualistici e tridimensionali. La nuova serie di potenziali non si possono ancora cercare di definire. Sono nuovi di zecca e sono così preziosi. Non cercheremo neppure di associare loro una parola umana, un termine lineare. Ricordate che nemmeno tanto tempo fa, su questo treno, abbiamo parlato del Sans Definition? Zitto e ascolta! Risate da parte del pubblico e Tobias. Permettete, espandete, superate il bisogno delle parole, così quando vi sentite bloccati, quando vi sentite limitati e piccoli, fermatevi proprio in quel momento e in quel posto. Yo Ham. Fate un profondo respiro e ricordatevi che i potenziali sono grandiosi e superano i limiti dei parametri che potreste mai associare alla vita umana, il potenziale della vostra consapevolezza. Il nostro arrivo. Tra poche ore faremo il nostro ingresso nella stazione del salto quantico. Ricordatevi di controllare il portabagagli per le cose che ci avete messo e fate attenzione quando lo aprite, perché le cose potrebbero essere cambiate. Molti ridono mentre Tobias imita le istruzioni date agli assistenti di volo. E alcune cose potrebbero cadervi addosso. Controllate bene il vostro sedile e gli scomparti intorno a voi e, per favore, assicuratevi di prendere solamente il vostro bagaglio. Vedete? Il bagaglio di tutti gli umani tende ad assomigliarsi, risate, e molti di loro non sono vostri. Se prendete la borsa di qualcun altro, potreste impedirgli l'esperienza del cambiamento di consapevolezza. E date retta a me, non vi piacerebbe, risate, ne avete avuto abbastanza. Prendete solo ciò che è vostro e scegliete di proseguire. Forse qualche bagaglio potrebbe portare il vostro nome, ma lo è veramente? È davvero voi o è semplicemente un aspetto che stava recitando? Si tratta forse di una vecchia vita che cerca ancora di attirare la vostra attenzione? O magari, semplicemente, una parte di voi che è stata così profondamente ferita e colpita da un altro umano o da un gruppo di umani e di cui non riuscite a liberarvi? Masha Umbra, prendete solo ciò che scegliete. Non dovrete prendere le ferite, neppure i limiti, perché non funzionano molto bene in questa cosa che definiamo l'espresso del salto quantico. Non portatevi dietro gli articoli che sono vecchi e fuori moda e che non vi servono più. Non pensate di doverli portare con voi. Vedete? Alcuni di voi stanno già pianificando la prossima tappa sull'espresso del salto quantico, che lascia la stazione stanotte a mezzanotte, quando sarà giorno sulle montagne di Taos, New Mexico. Portatevi solo ciò che avete bisogno per questo viaggio. Ora, alcuni di voi stanno pensando: beh, avrò bisogno di tutti questi accessori. Avrò bisogno dei miei trucchi, risate. Avrò bisogno di tutti questi cambi d'abito. Avrò bisogno di tutti questi regali da distribuire agli amici. E ho bisogno di molto denaro nelle mie carte di credito, perché il sindaco mi ha detto che ho bisogno di una carta di credito. Molti ridono perché Tobias si riferisce al benvenuto dato dal sindaco di Taos, New Mexico, durante la cerimonia di apertura. Penserete di aver bisogno delle vostre bollette e del vostro credito e dei vostri ex mariti e dei vostri bambini e di tutto il resto di queste cose. Ma prima di farlo fermatevi, proprio adesso. Io Ham. Fermiamoci proprio adesso e facciamo un respiro profondo. Di che cosa avete veramente bisogno? Non molto, non molto. Ciò che avete imparato, sì. La vostra saggezza, assolutamente. Quel nuovo abito, quello che avete provato e avete fatto rimettere a modello, quello che definiamo la nuova energia, probabilmente. È una buona idea portarselo dietro. Non voglio vedermi nudi sull'espresso del salto quantico, risate. Date un'occhiata proprio adesso, mentre siamo molto, molto vicini al capolinea sul treno umano della vecchia energia. Di che cosa avrete davvero bisogno? È piuttosto difficile cercare di decidere, perché, beh, in un certo senso, vi trovate ancora nel cervello umano della vecchia energia e quindi pensate ancora in termini di vecchia energia. State ancora pensando a come è stato il viaggio per arrivare a questo punto, ma non sapete affatto come sarà a proseguire. Portate con voi solo ciò di cui avete bisogno. Quando il treno entrerà in stazione stasera, non vi chiederemo di salire sull'espresso del salto quantico. Potete rimanere in stazione per tutto il tempo che volete, ma non potete tornare indietro. Non ci sono treni che rientrano. Risate. Tutti i treni proseguono. Potete rimanere in stazione per tutto il tempo che volete. Forse un altro gruppo di umani arriverà, prima o poi, e vi permetterete di unirvi al gruppo. Oppure potreste salire sull'espresso del salto quantico insieme a noi stasera. Oh, non saliremo su un treno, non saliremo su un aeroplano. Non so dove saliremo. Non ne abbiamo idea, risate. Non ne abbiamo la più pallida idea, risate d'applausi. Ma non è proprio questo che lo rende speciale. Non è questo che ci toglie dalla noia. Non è questo che ci dà una buona ragione per voler andare a letto questa notte e svegliarci domani mattina per vedere che diavolo succede questa volta? Molte risate. So che ci saranno migliaia e migliaia di sciaumbra che saliranno.

Copyright 2007 Jeffrey Hope Golden CO 80403.